ti domando in primo luogo dignità. In ogni terra basta iniquità. In ogni paese, in ogni angolo del mondo, nei palazzi che si nutrono di fango. Ogni innocenza deve essere rispettata, protetta, amata, incoraggiata, sostenuta. Chi umilia la vita non ha radici nel suo cuore, chi umilia l'uomo non è degno di questo sole. Chi umilia la vita non ha radici nel suo cuore, chi umilia l'uomo non è degno di questo sole. Vi domando in secondo luogo libertà, per ogni persona, ogni pensiero, in ogni città. Chi si crede superiore è uno stolto senza voce, siamo tutti figli di una stessa luce. Farò tutto affinché tu possa dire la tua, farò tutto anche se la tua idea non è la mia. È giunta l'ora di aprire bene gli occhi e le orecchie, ridiamo un senso alle nostre parole, alle nostre bocche. È giunta l'ora di aprire bene gli occhi e le orecchie, ridiamo un senso alle nostre parole, alle nostre bocche. In terzo luogo vi domando giustizia. Mi appello a voi, uomini che avete ancora una faccia, voi che siete stanchi degli stupri dei senza legge, voi che lottate per il bene di tutta la gente. Ogni atto deve essere fatto nel rispetto dell'altro, ogni sguardo deve poter abbracciare il tutto. Come potrei essere nel giusto se sono il primo sempre a fare un passo falso? Come potrei essere nel giusto se sono il primo a fare un passo falso? In quarto luogo vi domando equità. Ogni persona deve poter esprimere ciò che ha, solo così potrà risplendere ogni futuro, solo così avremo tutti un nostro destino. Equità nelle scelte del lavoro, equità tra le donne e l'uomo, equità nei sobborghi di ogni cultura, equità in ogni valle, in ogni altura, equità nei sobborghi di ogni cultura, equità in ogni valle, in ogni altura. In quinto luogo va da sé, domando amore, che è dignità, libertà, giustizia e cuore. Senza di lui non si va da nessuna parte, senza di lui siamo tutti anime perse. Arriverà, beato sia, beato il giorno, arriverà e non ci sarà mai più ritorno. Che la violenza la esprime solo chi ha paura, tu traccia dritto, vai per la tua strada. Che la violenza la esprime solo chi ha paura, tu traccia dritto, vai per la tua strada. 5 su 5 e non ne può mancare uno, 5 su 5 per seminare il nostro grano, 5 su 5 come sorelle di uno stesso padre,